Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ma pensiamo anche alla semplicità di personaggi inventati, come Don Camillo che fa coppia con Peppone. Mi colpisce come nelle storie di Guareschi la preghiera di un buon parroco si unisca alla evidente vicinanza con la gente. Anche di Guareschi avete sentito, ha parlato il Papa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, oggi nella sua visita in Toscana tra Prato e Firenze, per sottolineare insomma la sua vocazione pastorale, il stare in mezzo alla gente, come dice anche i vescovi, bisogna sporcarsi le mani, bisogna, dice, preferisco una chiesa sporca, appunto, così un po' malandata, piuttosto che una chiesa ossessionata dal potere. Parleremo naturalmente di questa visita del Papa, delle cose anche importanti che ha detto oggi, e poi fra i vari temi naturalmente torneremo anche sullo scandalo che ha colpito la Russia, lo sport russo, a proposito delle accuse di doping. La Russia respinge queste accuse, però il dossier sembra decisamente serio. Nello stesso tempo la Russia però dice, vabbè, se ci fosse qualche irregolarità collaboriamo. Intanto il Comitato Internazionale Olimpico si dice pronto a togliere le medaglie olimpiche agli atleti russi che le hanno vinto. Quindi cercheremo di capire quali sono gli sviluppi di questa vicenda, anche perché ha delle implicazioni naturalmente anche diplomatico-internazionali, politiche, si allarga molto questa vicenda. E poi invece, a proposito di Cina, ci occuperemo di questa che viene definita apocalisse smog, cioè nella parte nord-est in particolare della Cina sembra che veramente si soffochi ormai per lo smog, tanto che hanno chiuso autostrade e aeroporti, perché si vede a pochissima distanza, c'è questa cortina densissima di smog che sta avvelenando le persone e in più impedisce di vivere normalmente. Ed è un problema che riguarda non a quei livelli, ma insomma solo era di ieri il riscaldamento globale, gli effetti serra record raggiunti nel 2014. Vedo già la vostra sensibilità sulla pagina Facebook di Effetto Notte su questo tema dello smog altissimo in Cina, ma non solo, e se volete anche potete commentare con le vostre riflessioni a proposito dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento, della poca sensibilità a livello internazionale, anche con i messaggi al 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666 o pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto, prima di passare poi ai vari argomenti con gli ospiti, vi riassumo la giornata. Lavoro, secondo i dati INPS, oltre 900.000 assunti con sgravi in 9 mesi. Il ministro Padoan commenta: l'Italia sta uscendo dalla crisi, primi frutti delle riforme. Renzi a Milano, l'Expo dice sarà un centro di ricerca, pronto 1,5 miliardi in 10 anni. Doping, si dimette il capo dell'antidoping russo e il CIO dice pronti a ritirare le medaglie. La visita del Papa in Toscana, messa davanti a migliaia di persone nello stadio di Firenze, come Gesù ha detto mi piace una chiesa inquieta. Smog in Cina, record storico, l'inquinamento soffoca al nord del paese, chiusi strade e aeroporti. Olio extravergine, indagata per frode 7 aziende nazionali, tra cui Carapelli, Sasso e Bertolli. Scuola, via le ultime 50.000 assunzioni dei precari. Germania, addio Helmut Schmidt, l'ex cancelliere tedesco, aveva 96 anni, guidò il paese dal 1974 al 1982. Quindi dalla visita del presidente del Consiglio Renzi a Milano, dove ha presentato nel pomeriggio in via Rovello, che è sede della società Expo 2015, anche del piccolo teatro naturalmente, il progetto del governo per il dopo Expo. Sapete che è da tempo che ci si interroga su quello che sarà il futuro di quell'area e sul quale insomma lui ha detto il governo è pronto a investire 150 milioni l'anno per i prossimi 10 anni. E per noi c'era la nostra Anna Marino. Ciao Anna. Ciao Roberta e buonasera a tutti gli ascoltatori. Certo, la domanda, smantellati tutti i padiglioni, è come saranno utilizzati quel 1.100.000 metri quadri. Solo a pensarli però, è veramente importante, enorme. Attraversati dal decumano, molti li hanno visti, e così in prima persona è arrivato appunto il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha voluto assicurare l'impegno del governo che continua, così lo ha chiamato, presentando, come hai detto, al piccolo Teatro Grassi di Milano il piano per l'utilizzo dell'area Expo, e ha fatto i numeri concreti, li possiamo sentire. Il punto chiave è, a mio giudizio, quello di partire da subito perché questo progetto dia il senso dell'ambizione dell'Expo e di Milano. Lo Stato è pronto a investire 150 milioni all'anno per i prossimi 10 anni. Lo Stato è pronto, per utilizzare le parole di Tim Cook oggi alla Bocconi, a fare un progetto che sia the best, come deve essere l'Italia, e non puntare al the most. L'Italia è pronta a evitare che quest'area diventi l'area del nostro rimpianto. Ecco, quindi una missione, 1,5 miliardi in totale in un decennio per questo polo che si chiamerà Human Technopole Italy 2040. Renzi punta proprio sull'esperienza vincente dell'Expo 2015 per dimostrare che il nostro può essere un paese che funziona, cioè un paese che sa fare le riforme. Ne ha elencate alcune, dalla scuola alle tasse alla riforma del lavoro, il Jobs Act, e ha sottolineato appunto i dati dell'INPS, quelli rivelati dall'osservatorio INPS sul precariato che analizza i primi 9 mesi dell'anno. Sentiamo. Aver semplificato il mercato del lavoro non significa aver realizzato un progetto da qui ai prossimi 20 anni. Significa aver rimesso ordine in un sistema che può piacere o meno, ma che adesso funziona. I dati INPS di oggi, li ha resi noti il presidente Boeri qualche ora fa, dicono che dal 1 gennaio il saldo attivo è di oltre 400.000 nuove assunzioni. Molti sono contratti a tempo di lavoro indeterminato, contratti a tempo indeterminato, o meglio, a tutele crescenti, come si chiamano adesso. Quindi, è un segno di una novità. Quindi una novità. Punta appunto novità, ma quindi punta anche su esperienze positive, non solo l'esperienza dell'Expo, ma anche tutti i dati e le riforme fatte. Ha sottolineato anche che Milano può essere la locomotiva d'Europa, può essere un centro culturale, può essere... quello che può portare avanti l'Italia verso il futuro. E ha rassicurato però anche le autorità locali, perché ci sono state delle polemiche. Ha detto no ai campanilismi e che non sarà un esproprio proletario. Queste erano state le parole di Roberto Maroni, del governatore della Lombardia, che aveva messo come condizione proprio il coinvolgimento delle istituzioni lombarde. E qui ci vuole Renzi un progetto, però un progetto che guardi lontano e al futuro. E qui appunto ha detto l'esperienza di governo è un'esperienza concreta. Sentiamo appunto l'esperienza dei 20 mesi. Negli ultimi 20 anni l'Italia ha parlato tutti i giorni di riforme, tutti i giorni. Non c'è stato un solo giorno in cui negli ultimi 20 anni noi non abbiamo discusso di riforme. Negli ultimi 20 mesi queste riforme sono state realizzate. La vera domanda è come vogliamo essere nei prossimi 20 anni adesso. Ecco, questo per guardare al futuro è pensato il progetto. Un polo di ricerca dedicato ai big data e alla genomica diventerà nei piani del governo proprio un fiore all'occhiello per il nostro paese, per l'immagine dell'Italia che dovrà essere veicolata all'estero, come è stato l'Expo. Grazie Anna Marino, fresca di visita all'Expo con Renzi oggi. E a proposito di riforme, qualche minuto prima delle 16 di oggi, come previsto, è scattata la fase C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge sulla buona scuola. Sono 48.794 le proposte di assunzione inviate dal Ministero dell'Istruzione, 2.000 i docenti che in una sola ora hanno già accettato la sede assegnata. In totale i posti previsti dalla fase C del piano di stabilizzazione dei precari sono quasi 50.000, più 6.500 per il sostegno. Quelli che resteranno non assegnati saranno coperti ancora una volta con supplenze annuali in attesa del concorso. Festeggiano gli insegnanti che si vedono finalmente assegnare un posto di ruolo. Sul web vengono postate le foto delle lettere tanto attese. Avranno 10 giorni per accettare la proposta. Fatti, non parole, nessun pasticcio come millanta il Movimento 5 Stelle, come sempre pronto a mistificare la verità, commenta Simona Malpezzi del PD. Purtroppo anche in questa fase è mancata la necessaria trasparenza nelle procedure, denuncia invece Elena Centemero di Forza Italia. Venerdì intanto nuovo sciopero generale di ANIF e sindacati di base contro quelle che definiscono le forti incongruenze ed ingiustizie contenute nella riforma della buona scuola. Maria Piera Ceci, Radio 24, il Sole 24 Ore. E poi il doping. Per quanto riguarda la Russia, si dimette il capo dell'antidoping russo dopo le accuse di ieri dell'Agenzia Internazionale Antidoping, che chiede di sospendere gli atleti russi. La Russia respinge le accuse, nello stesso tempo però si dice pronta a collaborare su eventuali irregolarità, e il Comitato Internazionale Olimpico, come vi dicevo, si dice pronto a ritirare le medaglie. Poi parleremo di quali implicazioni politiche abbia questa vicenda, di come lo sport sia stato usato e venga usato come uno strumento di propaganda. Poi c'è la visita del Papa in Toscana, il Papa che nella sua visita pastorale ha celebrato nel pomeriggio la messa allo Stadio Franchi di Firenze di fronte a migliaia di persone. Bergoglio ha parlato della necessità di una chiesa umile e vicino alla gente, come avete sentito ha anche citato Peppone Don Camillo. Lo smog in Cina, record storico, l'inquinamento soffoca il nord e nord-est del paese, chiusi strade e aeroporti perché la visibilità appunto è ridotta al massimo a 500 metri per via della spessissima cortina di smog. Parleremo di cosa questo comporti, danni alla salute, cambiamenti climatici più tardi. Tra l'altro, questo in vista della conferenza internazionale sull'ambiente a Parigi che parte il 30 novembre. Vedo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Fettonotte a proposito di questo argomento, se volete anche al 349-238-6666 per gli sms. Restiamo all'estero, fa già discutere la lettera del primo ministro britannico Cameron con le proposte di riforma dell'Unione Europea che includono grosse potenziali limitazioni alla libertà di movimento. Ne discuterà il prossimo Consiglio Europeo a dicembre. Garanzie sulla protezione dei paesi che non appartengono all'Eurozona, taglio della burocrazia comunitaria, esenzione di Londra dagli obiettivi di un'unione più stretta, riduzione del flusso di migranti dall'Europa. Il premier britannico David Cameron rende finalmente note le proposte di riforma dell'Unione in vista del referendum sul dentro o fuori dall'Europa previsto nel prossimo biennio. Cameron lo ha fatto sia inviando una lettera ai vertici comunitari, sia spiegando le sue idee in una conferenza alla Chatham House. Londra potrebbe lasciare l'Unione se non otterrà le riforme che chiede, ha avvertito Cameron, secondo cui il referendum, qualsiasi sarà l'esito, non sarà ripetuto. Nella lettera di 6 pagine inviata a Bruxelles insiste sulla protezione dei paesi esterni all'euro, sia nel mercato unico che nell'unione bancaria, che nei costi da sopportare in caso di crisi. Poi attacca l'eccessiva regolamentazione comunitaria che colpisce il business. Cameron chiede un potere di veto dei parlamenti nazionali sulle leggi comunitarie. E infine il tema più caldo, quello dell'immigrazione. Tra le proposte, introdurre un periodo di 4 anni senza diritto ai benefits del welfare per gli immigrati europei oltre Manica. Proprio la possibile discriminazione tra cittadini comunitari ha scatenato la reazione di Bruxelles. Ci sono aspetti fattibili, altri difficili, altri altamente problematici. Nella lettera ha affermato un portavoce della Commissione, Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di Germania, un lutto, è morto Helmut Schmidt, lo ha comunicato il suo medico personale, aveva 96 anni, è stato cancelliere tedesco del Partito Socialdemocratico dal 1974 al 1982 e pare sia stato il più amato dei capi di governo tedeschi. Tra l'altro, in una delle sue ultime interviste rilasciate il 28 aprile scorso, l'ex cancelliere si preoccupava, pensate, dell'esplosione demografica mondiale, dell'invecchiamento della popolazione, dell'interconnessione, della dipendenza delle economie dei paesi del globo. Quindi argomenti tutti estremamente attuali. E per quanto riguarda invece casa nostra, ci tocca di nuovo parlare di frodi. A proposito di olio extravergine, 7 importanti aziende nazionali sono indagate appunto per frode. L'olio prodotto non sarebbe extravergine. Sull'etichetta la scritta olio extravergine d'oliva, ma dentro la bottiglia solo semplice olio vergine, meno pregiato e meno costoso. A buggerare i consumatori italiani, stando all'inchiesta dei NAS di Torino coordinata dal procuratore Raffaele Guarignello, sarebbero 7 aziende italiane del settore: Antica Badia, Bertolli, Carapelli, Coricelli, Primadonna, Santa Sabina e Sasso, che offrono oli prodotti in Toscana, Abruzzo e Liguria. Un'indagine nata dalla segnalazione nel giugno del 2015 da parte del mensile di tutela dei consumatori, il test ex salvagente. Le analisi dei laboratori dell'Agenzia delle Dogane, dopo aver esaminato i campioni prelevati dai carabinieri del NAS, hanno confermato l'imbroglio. I rappresentanti legali delle aziende olearie sono stati così indagati per frode in commercio, mentre ora si procederà con ulteriori accertamenti sulla provenienza delle olive. Seguiamo con attenzione le evoluzioni delle indagini perché è fondamentale tutelare un settore strategico come quello dell'olio d'oliva italiano, il commento del ministro delle politiche agricole Maurizio Martina. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca a proposito dell'omicidio di Ancona dei due fidanzatini. Roberta Pierini è stata la madre della sedicenne, è stata raggiunta da 3 colpi di pistola, questo secondo l'autopsia: uno mortale alla testa, uno al fianco destro e uno di striscio al braccio sinistro. Queste le prime indiscrezioni, insomma, sull'autopsia condotta dal medico legale Marco Valsecchi. E si apprende che quando era ancora minorenne viveva in Sicilia. Carlo Tagliata, che è il padre di Antonio, il 18enne che ad Ancona appunto ha ucciso la madre della fidanzatina sedicenne e ferito il padre, fu accusato, il padre di questo ragazzo a Siracusa, di un delitto, diciamo, passionale in concorso con altri. Fu processato dal tribunale dei minori come esecutore materiale dell'omicidio di Salvatore Morale. Pensava che insidiasse la sua fidanzata. Salvatore Morale, dipendente di un negozio di frutta, venne assassinato a colpi di pistola nel 1987. Vedete a volte come è difficile liberarsi di certe eredità. E poi c'è una svolta nell'omicidio del piccolo Loris, perché la madre, che è in carcere ad Agrigento, avrebbe detto al marito in un colloquio di qualche giorno fa: non l'ho accompagnato a scuola. Finora ha sempre detto che l'aveva accompagnato a scuola, adesso questa rivelazione: non l'ho accompagnato a scuola, dice, però ribadisce: non l'ho ammazzato io. Per chiudere parliamo del calendario dei carabinieri, carabinieri e le arti, questo sarà il tema scelto per il 2016 come filo conduttore del calendario storico dell'arma dei carabinieri, che insieme alla tradizionale agenda storica sarà dedicato al centenario della Grande Guerra e ai carabinieri nella Resistenza. Prima di aggiornare chi sta viaggiando, vorrei vedere qualche vostro messaggio, ecco, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Note, a proposito di questo inquinamento record in Cina, tanto che si parla di apocalisse dell'aria. Cristiano dice: è la spinta più estrema e malata di un capitalismo che sforna di tutto. Si parla di ridimensionare le emissioni industriali, ma se la domanda aumenta e promette tassi di crescita notevoli, la produzione non si arresterà. Giuseppe: non solo aria inquinata, ma tanti tanti prodotti che esportano i cinesi e che poi vengono sequestrati dalla Guardia di Finanza nei loro negozi. Come mai a nessuno viene in mente di controllare i container quando arrivano in Italia? Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Note, oppure per i messaggi SMS al 349-238-6666. Ci sentiamo un momento. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. In galera i controllori, solo ora qualcuno si accorge della truffa dell'olio d'oliva, dice qualcuno scrivendo gli sms al 349-238-6666, non ha tutti i torti effettivamente. Poi pare che questa inchiesta di Guarinello sia partita da una un'inchiesta giornalistica su un famoso periodico, possiamo immaginare, sarà sicuramente legato a qualche associazione dei consumatori. Poi scrive un altro ascoltatore a proposito del tema grosso anche di stasera, di oggi, quello della Cina con un inquinamento record, tanto che si parla di apocalisse dell'aria. Scrive: dell'ambiente non gliene importa niente a nessuno, questa è la mia opinione, chiaramente parliamo di alti vertici. Più tardi parliamo di questo argomento, tra poco invece ci soffermiamo sulla visita del Papa, il significato anche di questa visita, di quello che ha detto. Però come sempre, se qualcuno non ha acceso puntualmente alle 21 su Effetto Notte, vi ricordo le notizie più importanti della giornata. Gli sgravi in Italia spingono il lavoro, in 9 mesi 900.000 assunti. Renzi, per quanto riguarda il futuro di Expo, oggi a Milano ha detto: ci sono 150 milioni all'anno per il dopo Expo, sarà un grande centro di ricerca. E poi il Papa a Firenze che dice: no, una chiesa ossessionata dal potere, sia inquieta e vicina agli abbandonati. Doping: Mosca respinge le accuse, ma cadono le prime teste. Lascia infatti il capo dell'antidoping russo. Putin convoca intanto per i prossimi giorni le federazioni di atletica e le federazioni sportive. Cameron, primo ministro inglese, scrive all'Unione Europea: 4 riforme per evitare la Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. E poi l'apocalisse smog in Cina, l'inquinamento soffoca il nord, a Shenyang record storico di inquinamento, chiusi strade e aeroporti. E poi addio a Helmut Schmidt, la stella polare dei tedeschi, aveva 96 anni, l'ex cancelliere della Guerra Fredda dal 1974 al 1982. Prima di cominciare con il primo argomento, è una notizia che è arrivata poco fa, vedo tutta stellata un'agenzia con il bollino rosso: sarebbe stato un esplosivo, a proposito dell'aereo russo precipitato sul Sinai, sarebbe stato un esplosivo al plastico C4 di tipo militare a provocare lo schianto dell'aereo russo nel Sinai egiziano, lo riferisce la CNN, che cita fonti del Dipartimento di Stato americano. Solo un esplosivo di tipo militare avrebbe potuto provocare quel genere di schianto. Questa è la notizia che è arrivata pochi istanti fa. Adesso però cerchiamo di rilassarci un po', parlare invece della visita in Toscana del Papa, una giornata iniziata a Prato e poi trascorsa nel capoluogo toscano, a Firenze. Era lì Ubaldo Cianciulli. Ciao Ubaldo. Ciao Roberto, buonasera. Una giornata intensa, insomma, poi ha fatto messa anche nello stadio Franchi con 50.000 persone, è stata veramente un'accoglienza calorosa, no? È stata una bella giornata piena, densa, sia per il Papa che per chi l'ha seguito, per i tanti fedeli che lo hanno incontrato, hanno affollato le strade, ed è stata una giornata bella, emozionante. È stata la prima volta che Papa Francesco ha messo piede a Firenze, non c'era mai stato neanche da vescovo, né mai. E Firenze e Prato sono state invece visitate da un Papa a distanza di 29 anni, Giovanni Paolo II, proprio nell'86 fece visita alle stesse due città. Si è parlato molto dei temi che Papa Francesco ha voluto sottolineare in questi due giorni: il lavoro, soprattutto parlando a Prato, un lavoro degno, una lotta, diciamo, al lavoro sfruttato, una chiesa che sia più vicina agli ultimi, una chiesa che sia tra la gente, per la gente, come diciamo la chiesa concepita da Don Camillo. Ha sentito prima la citazione, questo, sì. Ubaldo, tra l'altro, ha incontrato la comunità cinese, no? A Prato. Sì, ha incontrato la comunità cinese, sono circa 160 i cinesi di religione cattolica che sono presenti a Prato. Ha incontrato una quarantina di malati nella Basilica della Santissima Annunziata a Firenze, dove si è ritirato in preghiera in un momento privato, e sempre in Piazza Santissima Annunziata ha pranzato poi alla Caritas con i poveri. Quindi come suo diciamo figlio è stato ultimo tra gli ultimi, non ci sono stati momenti di incontri ufficiali con le autorità. Ti vorrei, diciamo, visto abbiamo parlato nei GR, nelle varie occasioni, dei temi tra virgolette più importanti, ti vorrei raccontare due episodi, diciamo un po' a margine ma ugualmente significativi. Uno e un altro, diciamo, una notizia più di colore dolce. In Battistero a Firenze, prima dell'intervento del Papa, ci sono state tre testimonianze, una di una coppia di separati che si era risposata, una testimonianza di una donna che ha vissuto la malattia in famiglia e poi la testimonianza di un albanese che racconta un po' la storia di tanti immigrati che ormai da tanti anni sbarcano sulle nostre coste. Bleda Xuri, spero di aver pronunciato bene il suo nome, è un albanese arrivato in Italia nel 93 a 16 anni, ora ha 38 anni. Praticamente è arrivato a Firenze, ha raccontato perché un suo connazionale ha detto: guarda, viene a Firenze, si mangia e si dorme gratis. In effetti lui ha battuto e ha detto: sì, si dorme gratis, ho dormito sotto il ponte del torrente Mugnone, che è un torrentino, quindi sicuramente gratuitamente, e ho mangiato alla Caritas in modo altrettanto gratuito. Quindi insomma se l'è vista parecchio male, anche perché lui sperava di trovare a Firenze in Italia una sistemazione, un lavoro, un qualcosa di migliore rispetto a quello che aveva lasciato in Albania, da clandestino, con un passaporto falso, eccetera eccetera. Quindi è purtroppo una situazione che viviamo molto spesso. Questo ragazzo insomma era sbandato, non sapeva dove battere la testa, ha bussato a una parrocchia qui di Campo di Marte, vicino allo stadio. Ha raccontato la sua vita, quello che stava provando al parroco, e il parroco è rimasto sconcertato, diceva: come, insomma, in questa situazione? Ha provato a dargli una mano, non ha trovato nessuna famiglia, lo accoglieva. Il giorno dopo allora ha detto: io credo che in questo momento sia Gesù Cristo abbia bussato alla mia porta e l'ho accolto. E questo ragazzo ha vissuto in casa del parroco per 8 anni, è cresciuto. Lui tra l'altro era anche di religione, era ateo, quindi non era anche di religione cristiana, si è avvicinato alla chiesa, gli è piaciuto, ha voluto fare, conseguire i sacramenti, il parroco gli ha fatto fare tutto il percorso che doveva fare, è riuscito a diplomarsi, è riuscito a trovare un lavoro come manager, poi ha voluto intraprendere invece la strada del seminario. Quindi diciamo, da un giovane ragazzo sbandato, albanese, senza clandestino, senza documenti, ha trovato una porta che gli è stata aperta ed è diventato a sua volta sacerdote. E lui ha raccontato, è bella questa effettivamente storia. È una bella storia, ha raccontato, dice, il prete che tra l'altro poi morì nel 2002 e quindi diciamo dopo 8 anni poi lo lasciò anche solo, e disse che alla mia porta aveva bussato Gesù Cristo. Io credo che effettivamente quella volta Gesù Cristo mi aprì la porta, non fui tanto io a bussare. E sicuramente questa storia, Ubaldo, sarà piaciuta moltissimo al Papa. Adesso passiamo tra pochissimo con Carlo Marroni anche ai temi, ai contenuti forti che ha trattato il Papa ancora una volta, proprio per esempio della Chiesa ossessionata dal potere. Grazie tanto, Ubaldo Cianciulli da Firenze. Ciao Ubaldo. Buona serata, ciao Roberta. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Allora, questa frase, Carlo Barroni, vaticanista del Sole 24 Ore, ciao, sicuramente connota fortemente, no, Papa Francesco, per quello che lui è, quello che si sente, quella che è la sua missione, e in più qualche riferimento a quello che è successo ancora in questi giorni, VatiLeaks, i privilegi, gli scandali, eccetera, probabilmente è, no, un riferimento non tanto velato. Sì, allora, il riferimento l'ha fatto a Prato quando, perché appunto, divisa in due tappe. Prato ha parlato contro la corruzione, le persone morte in un rogo 2 anni fa, i cinesi, e poi ha detto appunto contro le trame, dice che fanno solo male. Questo forse è stato l'unico vero riferimento. Poi ha parlato naturalmente della Chiesa, che non deve vivere in mezzo alla gente, che non deve essere, insomma, non ci deve essere il potere, i soldi. Carlo, scusami, infatti a proposito di questo, a proposito del potere, sentiamo anche quest'altro passaggio, scusami. Non dobbiamo essere ossessionati dal potere, anche quando questo prende il volto di un potere utile e funzionale all'immagine sociale della Chiesa. Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, si disorienta, perde il senso. Se li assume invece, sa essere all'altezza della sua missione. Ecco, anche qua, no, chiaramente continua, insomma, a lanciare moniti. Allora, qui oggi, diciamo così, va inquadrata la giornata, che giustamente dicevi, è un fatto particolare oggi. Il Papa spesso ha detto queste cose, l'ha detto, però oggi è una giornata molto particolare, perché oggi si tenevano a Firenze, ieri, oggi e domani, gli stati generali della Chiesa d'Italia, CEI, e si tengono ogni 10 anni. Ora, il Papa è la prima volta, questo Papa, che partecipava a un evento di questo tipo. Oggi si disegnava in qualche modo la Chiesa italiana del futuro. Il Papa oggi ha impresso una fortissima svolta, ha chiuso, se possiamo dire un po' così giornalisticamente, con l'epoca precedente, con l'epoca del Cardinale Ruini, che negli scorsi 25 anni ha segnato, cioè la Chiesa, diciamo, influente, la Chiesa anche con la politica, la Chiesa sicuramente, non tutti sono così nella Chiesa, nel senso ci sono i parroci che fanno la loro vita quotidiana, però diciamo la CEI in questi ultimi 20 anni ha rappresentato un potere forte, importante. Quando il Papa ha detto dobbiamo rifugire dal potere anche quando fa, diciamo, ci interessa a noi, perché fa bene la nostra immagine, lui intendeva quello, cioè quando la Chiesa di 10 anni fa o 15, con la politica, le leggi che passavano, che non passavano, eccetera, questa era, diciamo così, una strategia che secondo i vescovi dell'epoca era una strategia buona. Il Papa ha detto con questa chiudiamo, cioè oggi Firenze 10 novembre 2015 è una data, diciamo, che per la Chiesa italiana è una svolta, una data storica, possiamo dire, perché con questo Papa si è chiusa una stagione. Questo è quello che è accaduto realmente, oltre al discorso che ha avuto, diciamo, sullo sviluppo complesso. Oggi ho fatto un discorso lunghissimo, quasi una mini enciclica, che, ecco, per quello, diciamo, segna anche una data importante oggi, ecco. Grazie Carlo Marroni. Grazie a te Roberta. Ciao Carlo. E adesso invece, prima di lasciarci, stavo guardando questa notizia che riguarda ancora la questione dell'olio, delle frodi sull'olio extravergine, o presunte frodi, insomma, per il momento in Italia. Se saranno confermati gli illeciti contestati dalla Procura di Torino, sarà inevitabile un'azione risarcitoria nei confronti delle aziende scorrette, lo afferma il Codacons commentando l'inchiesta per frode, appunto, in commercio sull'olio extravergine d'oliva avviato dal PM Raffaele Guariniello. Vedevo anche vari vostri messaggi su questa vicenda, vedo che vi ha colpito. Poi proseguiremo dopo e parleremo anche di questo inquinamento record che riguarda la Cina e non solo. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Pagina Facebook di Effettonote. Vogliamo prima fare un sorriso? Vediamo Crozza sulla 7 che dice. Il sabato sera su canale 5. Applausi. E cerco di conquistare questa giovane Veronica Lario. Aspetta Matteo, ti prego ancora un attimo, canto qualcosa, una barzelletta. Berlusconi, ma sapete quella del vecchio leader bollito che pur di non sparire si allea con chiunque? Non vi fa ridere? Figuratevi a me. A proposito del possibile liaison di nuovo con la Lega, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, continuano i vostri messaggi sia al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Daniele per esempio scrive: se consideriamo che in centro a Pechino hanno installato dei light wall, dei muri, leggende, insomma, con l'immagine del tramonto per la fuliggine che incombe sulla città e allietare i passanti, la vedo molto grave. Tra poco parleremo proprio di questo. I titoli intanto più importanti della giornata. Lavoro secondo i dati INPS, oltre 900.000 assunti con sgravi in 9 mesi. Il ministro Padoan commenta: l'Italia sta uscendo dalla crisi, primi frutti delle riforme. Renzi a Milano, l'Expo dice sarà un centro di ricerca pronto, 1,5 miliardi in 10 anni. Doping, si dimette il capo dell'antidoping russo. Il CIO dice pronti a ritirare le medaglie. La visita del Papa in Toscana, ne abbiamo appena parlato. Lo smog in Cina, record storico. L'inquinamento soffoca il nord del paese, chiusi strade e aeroporti, ne parleremo appunto tra pochi istanti. L'olio extravergine, indagate per frode aziende nazionali, 7 aziende nazionali tra cui Carapelli, Sasso e Bertolli. Per la scuola, via le ultime 50.000 assunzioni dei precari. Adesso parliamo di un tema di cui si parla spessissimo, si parla da tempo, negli anni, a livello anche di persone comuni, ma diciamo ancor più a livello di consessi internazionali. Però che cosa succede? Che se ne parla e poi questo tema viene accantonato come se bastasse parlarne, no? Parliamo dell'inquinamento e delle sue conseguenze sull'ambiente e soprattutto sulla salute umana. Ieri è arrivata la notizia che nel 2014 i gas serra, i gas a effetto serra nell'atmosfera, hanno raggiunto un nuovo record storico in base ai dati resi noti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Sembra una cosa già sentita, perché in effetti già nel 2013 si era toccato un record, così nel 2012, nel 2011, insomma di bene in meglio man mano progrediamo, e i dati del 2015 sono inequivocabili, cioè si va verso un altro primato e soprattutto ci si avvicina alla soglia critica di 400 ppm, poi ci faremo spiegare, di media annuale di CO2 nell'atmosfera del nostro pianeta. Come se non bastasse, oggi a distanza di un solo giorno c'è questa notizia. Invece si apprende che nel nord-est della Cina si parla addirittura di apocalisse dell'aria, cioè secondo gli ecologisti il livello di inquinamento rilevato nella città di Shenyang è il più alto mai registrato nel mondo. Domenica scorsa il livello di particelle in questa città PM, ritenute rischiose per la salute, è stato di 1400 microgrammi per metro cubico, cioè 56 volte più alto di quello ritenuto tollerabile dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E tra le città avvolte da questa domenica in questa nube grigio-giallastra c'era anche la capitale cinese, Pechino. Questa situazione terribile ha portato a cancellare i voli aerei, a chiudere le autostrade, perché la visibilità è di circa poco meno di 500 metri al massimo. La conseguenza più inquietante, però più grave, è che questi livelli di inquinamento registrati in Cina in questi giorni sono così alti che secondo gli esperti ci saranno subito conseguenze sulla salute, con l'aumento dei ricoveri, delle morti anche per problemi respiratori e cardiovascolari. Insomma, un disastro di cui evidentemente non teniamo conto. Anche Obama ha aperto la sua pagina Facebook e ieri, parlando di ambiente, ha lanciato un appello in vista della conferenza di Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre. Però insomma, per ora parole. Ne parliamo, provo di parlare con Stefano Caserini, che è docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano. Professor Caserini, è veramente un'apocalisse questa, buonasera. Ma sono valori molto alti, va detto che non sono particolarmente nuovi. In molte città cinesi, per effetto di un grande utilizzo del carbone, la qualità dell'aria è pessima. Poi condizioni meteorologiche possono rendere qualche situazione particolarmente critica, come in questi giorni, però insomma, anche in passato ci sono stati episodi di inquinamento molto alto, quindi questo conferma che in Cina l'inquinamento dell'aria è un fattore molto rilevante, la popolazione lo sa e sta protestando da tempo, e questo è uno dei motivi per cui anche le autorità cinesi stanno cercando di imboccare un'altra strada. Questo è il prezzo, diciamo, dello sviluppo senza controllo, no? Un po' tutti i paesi purtroppo hanno fatto questa strada, e soprattutto quelli così in crescita. Però a livello mondiale quanti vertici, professor Caserini, si sono fatti, si fanno? Adesso c'è questo della conferenza di Parigi che parte il 30 novembre, però di concreto, visto che dai dati che leggevo prima man mano ogni anno ha superato il record, non mi sembra che stiamo andando verso, diciamo, un orizzonte virtuoso. Beh, non è un accordo, non è semplice mettersi d'accordo per ridurre a livello globale le emissioni. Non è semplice perché si tratta di cambiare radicalmente il sistema energetico, un sistema energetico che per chi come la Cina ha molto carbone può essere conveniente, appunto, l'utilizzo del carbone. Se invece si fanno i conti sugli impatti sulla salute e del cambiamento climatico, si vede che potrebbe essere più conveniente utilizzare altre forme di energia, che sembra che costano di più in questo momento, ma soltanto perché non facciamo tutti i conti. Quindi, professore, lei è ottimista, nel senso che continueremo a toccare questi record o piano piano ci sarà una direzione di discesa? Allora, si può dire che negli ultimi, dopo Copenaghen, negli ultimi 4-5 anni dopo la conferenza di Copenaghen, È chiaro a livello globale che bisogna fare qualcosa, che ci vuole un impegno sostanzioso per ridurre le emissioni a livello globale. Non è semplice, perché poi si tratta di dividersi in modo equo il compito, e questo naturalmente crea diversi attriti, non insomma, non si mette d'accordo. Però la Cina, gli Stati Uniti, anche l'Europa, che forse si è mossa un po' prima, ormai hanno detto chiaramente che hanno intenzione di raggiungere un accordo. Quindi è probabile che a Parigi ci sarà un accordo di riduzione. Questo non fermerà i record di cui lei parlava, perché comunque, anche se riusciamo a ridurre, a stabilizzare, poi ridurre le emissioni di gas serra, ancora per molti, sicuramente per uno o due decenni, le concentrazioni di CO2 nell'atmosfera continueranno a crescere, perché c'è una grande inerzia del sistema climatico, anche perché adesso mettiamo molto di più di quello che i sistemi naturali sono in grado di assorbire. Per interrompere l'aumento della CO2 nell'atmosfera bisogna ridurre le emissioni di gas serra del 90%. Questo avverrà, se tutto va bene, nel giro di 4, 5, 6 decenni. Però già arrivare, come si vorrebbe fare, nel 2050, quindi in 35 anni, a dimezzare le emissioni globali, questo potrebbe essere già un primo risultato, insufficiente. Quindi si dovrebbe fare il massimo di quello che si può fare, che vuol dire, secondo molti studi, è possibile ridurre in modo sostanziale le emissioni nel giro di 2-3 decenni. Attendiamo questa conferenza di Parigi, anche se sappiamo, come ci ha detto, che insomma, ci vorranno decenni. Grazie intanto, professor Stefano Caserini. Prego. Grazie, buona serata. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E adesso le notizie ve le ricordo molto brevemente. Dice Leo da Forlì, che ringrazio anche per il finale del suo messaggio, di 3 euro al litro nei supermercati, io dal produttore a Pienza, un bellissimo borgo toscano, lo pago 10 euro a proposito dell'olio, nessuno si chiede come sia possibile, è proprio il paese delle banane, cioè certo non bisogna pagarlo sotto un certo prezzo l'olio, se no si capisce che insomma ha delle origini poco chiare. Adesso invece vi ricordo brevemente le notizie più importanti, che sono a partire dall'economia italiana, gli sgravi che spingono il lavoro, in 9 mesi sono stati 900.000 assunti, si parla del futuro dell'Expo, dell'area dell'Expo, 150 milioni all'anno per farne un grande centro di ricerca. Il Papa a Firenze, no, una chiesa ossessionata dal potere, sia inquieta e vicina agli abbandonati, dice. Il doping, Mosca respinge le accuse ma cadono le prime teste, ne parleremo tra poco. E poi l'apocalisse Smog in Cina, di cui abbiamo appena parlato. Vedo ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, per esempio Francesco posta anche una serie di ricerche, di centri di ricerca mondiale sulla pagina Facebook del programma. Ma adesso parliamo d'Europa. Europa 24 notte. C'è in qualche modo di nuovo la Cina, perché continua l'invasione dell'acciaio cinese nel mercato europeo. C'è stato un vertice straordinario dei 28 sulla competitività che ha toccato proprio questo problema, un problema che affonda le radici nel tempo e per il quale le imprese chiedono un impegno più fermo a Bruxelles. La Commissione è ben consapevole delle sfide per l'industria siderurgica ed è fortemente impegnata a migliorarne la competitività. Per questo farà pieno uso degli strumenti esistenti, oltre ad essere interessata ad ascoltare idee e suggerimenti degli Stati membri. L'invasione è già in atto da mesi. Dalla Cina e non solo arriva tanto acciaio, tanto da far crollare i prezzi e la produzione in Europa, con 5.000 licenziamenti solo nell'ultimo mese. Antonio Tajani, vicepresidente vicario del Parlamento europeo, ricorda il piano di azione del 2013. Io da commissario europeo all'industria proposi questo piano d'azione, che venne accettato, sostenuto. In questa legislatura al Parlamento europeo abbiamo avuto un lungo dibattito per sostenere, diciamo, il piano d'azione. Ora si tratta di andare avanti sulla strada che abbiamo indicato. Il Consiglio straordinario di ieri va nella giusta direzione e pone anche dei problemi nei confronti della Cina. Non possiamo noi concedere lo Stato di libero mercato, perché mancano i presupposti per farlo. Quindi anche per quanto riguarda il settore dell'acciaio, noi dobbiamo continuare a difendere le posizioni europee da una concorrenza che molto spesso è sleale, anche con azioni di antidumping. L'Europa cerca di porre rimedio a una situazione che sta provocando una debacle in molti paesi, colpita l'Italia ma anche la Francia, la Germania, la Gran Bretagna. Patrizia Toia è la vicepresidente della Commissione Industria a Strasburgo. Perché che si è fatto ieri questo Consiglio europeo competitività, perché si è mossa anche l'Inghilterra, che ha recentemente visto una espulsione di lavoratori dai processi produttivi per la crisi della Tata e di imprese e loro. Quindi questa Inghilterra, che non vuole l'Europa, ecco, di fronte a una difficoltà occupazionale e industriale, chiede all'Europa cosa si può fare. La sovracapacità del settore siderurgico in questo momento è stimata dai produttori europei di Eurofer a 500 milioni di tonnellate, di cui 300 solo in Cina, e questa da sola è superiore a più del doppio della produzione europea. C'è una superproduzione a livello mondiale, però noi le regole della concorrenza obsolete hanno creato un danno grave alla produzione ternana, e poi ci sono anche delle regole ambientali che certo devono essere sostenute, ma con obiettivi realizzabili per l'industria, perché se l'industria deve raggiungere degli obiettivi ambientali raggiungibili, facciamo un danno grave non soltanto all'industria ma soprattutto all'occupazione. Dazi antidumping più veloci, sorveglianza del mercato e il no alla concessione dello status di economia di mercato a Pechino. Queste le richieste delle imprese, così invece intendono muoversi le istituzioni europee. Compensazioni di ciò che si considera aiuto di Stato oppure non è aiuto di Stato. Recentemente la Commissione ha rivisto un po' tutta la disciplina degli aiuti di Stato, però noi vogliamo anche che sia interpretata in modo corretto, proprio per vincere quelle asimmetrie che stanno dentro all'Europa e che appunto spesso comportano una competizione non leale da parte di paesi che sono sostenuti, dove le industrie sono sostenute dallo Stato, e altri dove questo non può avvenire per ragioni di rispetto del bilancio pubblico. Secondo, vedere quali misure si possono anche adottare. Qui Katainen, che dirigeva, diciamo, era presente per la Commissione, è stato un po' vago, però ha detto che si riserva di vedere anche tutte le procedure che possono legare appunto il tema dell'importazione degli acciai. Non ha parlato di dazi in modo esplicito, però non ha neanche chiuso la porta. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Certo, è a 50 metri la visibilità in Cina, un ascoltatore dice, ho sentito bene, 500 metri, può darsi che io abbia dato i numeri, però sono 50 metri. Ma adesso passiamo invece alla deflagrante notizia di ieri che riguarda il doping degli atleti russi, con la Russia che rischia l'espulsione dalla Federazione Mondiale di Atletica Leggera per presunto uso sistematico di sostanze dopanti per gli atleti, tanto che si è parlato di doping di Stato. Questa è l'accusa dell'Agenzia Mondiale Antidoping, però... La Russia respinge questa accusa. Nello stesso tempo, che cosa è successo? Che si è dimesso oggi il direttore del laboratorio antidoping di Mosca, e tra l'altro il Comitato Internazionale Olimpico si dice pronto a ritirare le medaglie di questi atleti russi, come si può dire, un po' che hanno frodato. Ne parliamo con Marco Di Liddo, analista del CESI, Centro Studi Internazionali. Buonasera Di Liddo. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Possiamo dire che ha avuto sempre un ruolo nella storia, lo sport, nella propaganda, anche nel rafforzare l'immagine del potere, immaginiamo poi con Putin, con l'Unione Sovietica in precedenza, ma anche oggi, no? Con lo zar. Assolutamente Putin. Sì, assolutamente sì. Lo sport e in particolare le kermesse di richiamo internazionale, come i mondiali di calcio e le olimpiadi estive, quelle che tradizionalmente chiamiamo solamente olimpiadi, sono sempre stati appuntamenti che hanno avuto un forte richiamo propagandistico e quindi sono stati utilizzati da tutti i paesi e in particolare dalle superpotenze come cassa di risonanza per determinate questioni politiche. Gli ultimi casi hanno riguardato, per esempio, sono i boicottaggi olimpici a cavallo degli anni Ottanta tra Stati Uniti e Unione Sovietica per le vicende dell'invasione dell'Afghanistan, e in particolare l'ultima che ha avuto un forte impatto politico sono state le Olimpiadi in Cina, a Pechino, da molti criticate perché venivano utilizzate dal governo cinese come cassa di risonanza per questa affermata potenza mondiale a discapito di un paese che in alcuni casi purtroppo ha lamentato gravi carenze nella tutela dei diritti umani. Di Liddo, tra l'altro, c'è Ezio Gamba, che è olimpionico e attuale CT della Russia di judo, che dice: se è vero tutto questo, il mio amico Putin userà il pugno duro. Ma Putin non c'entra niente con tutta questa vicenda? Beh, no, in questo momento non possiamo sapere, certo, se Putin sappia o meno di quello che la Federazione Sportiva Russa ha combinato. Anche se pare di Lido che ci fosse di mezzo anche il KGB o il KGB di cui faceva parte Putin in passato, no? Che avrebbe ripulito gli esami nei laboratori di questi atleti. Diciamo che Putin apparteneva al servizio sovietico molti anni fa e non si occupava, diciamo, di dossier di questo tipo, però il rapporto dell'Agenzia Internazionale Antidoping ha dimostrato, ha espresso, ma non dimostrato ancora apertamente, che pare nei giochi invernali di Sochi alcuni membri dell'FSB, quindi del servizio di sicurezza, si siano comportati in maniera un po' troppo zelante, abbiano intimidito i controllori antidoping modificando poi quello che doveva essere il loro comportamento. Già. Adesso Putin tra l'altro incontrerà Sochi nei prossimi giorni, mercoledì, forse domani, quindi già l'incontro tra Putin e i capi delle federazioni sportive russe per parlare della preparazione degli atleti e sicuramente delle Olimpiadi di Rio, e sicuramente ci sarà di mezzo anche questo mattone. Grazie intanto Marco Di Lido del Cesi, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Buona serata, ci sentiamo alle 22.